Va bene, allora, ma dire iniziamo è un po', diciamo così, esagerato, perché non sappiamo neanche bene come andrà, cosa dire, il perché, il per come, in che senso. Nel senso che abbiamo pensato di affrontare questo argomento che è così enorme sotto certi aspetti, però poi noi cercheremo di renderlo un po' più elementare, di renderlo un po' più alla portata, non dico di tutti perché sono contrario io a che tutta la gente, che tutti, che le famiglie, ecco, no, a me mi basta qualcuno che abbia interesse, no? E penso che la maggior parte delle persone, qualcuno addirittura sostiene che siano il 99%, hanno esagerato, però fossero anche soltanto l'80, hanno delle buone ragioni per interessarsi alle questioni della finanza, che per loro non sono finanza, ma sono salari, stipendi, pensioni. E questo è un po' l'inizio. In una battuta che poi Massimo ha detto farò mia, ma subito la riprendo, cioè la riprendo, non è che l'ho inventata, mi è venuta così. Vorremmo parlarvi di economia, però vorrei precisare che soprattutto noi parleremo di econo sua, perché per quanto riguarda l'economia o l'econo vostra, salvo casi rari, insomma c'è ben poco da verificare, no? Detto questo, noi... però c'ha un suo perché, no? Anche perché tutta l'economia poi significa che abbiamo fatto questa, ma poi non so se vedete, poi andando avanti nel tempo, la decomposizione di questa società, io la chiamo così perché ormai siamo verso proprio la decomposizione, si associa a un mutare e anche a una decomposizione del linguaggio. In che senso? Nel senso che... Per esempio, non so, adesso hanno in corso una manovra, poi non ce la fanno, è diventata una manovrina e tra un po' finiremo, ti daranno una pacca, non so, sembra quasi siamo allo stalking qui, no? Ecco, quindi si associa anche la questione del linguaggio, ecco, anche la questione del linguaggio a livello delle questioni economiche sarà un passaggio che vogliamo ragionare. Però io non la voglio far lunga perché già non avendo le idee chiare io, figuriamoci se voglio spiegarle a voi, viene fuori un manicomio, no? Però io allora mi sono detto, beh, c'è qualcuno che ne sa più di me, alcuni mecenati qui presenti in sala mi hanno anche detto io posso portare degli specialisti e io ce l'ho qui, lo specialista o perlomeno qualcuno che si intenda un po' di tutte queste cose. E quindi è un modo per aprire una discussione nella realtà e questa discussione vediamo se avrà gambe e interessi per continuare oppure no, questo non lo possiamo sapere. Io lascio la parola a Massimo, no? Il quale... Sì, esatto. Esatto, come si dice, al terzo atto entra sempre uno che dice il pranzo è servito. Prego. Ma presentarmi, vi dico che ho smesso di lavorare l'anno scorso e praticamente ho sempre lavorato tra l'economia e la finanza, però con diciamo maggiore enfasi sulla parte finanziaria, sia per grandi istituti che per piccoli che per medi, sia a livello imprenditoriale. Allora, il discorso che faceva Marco è giustissimo. Io aggiungo che la finanza riguarda il 101% di tutte le persone che sono su questa terra. L'1% sono quelli che nasceranno domani, perché saranno dentro anche loro in questa storia. E la finanza non è, dal mio punto di vista, un termine che definisce una specializzazione. La finanza è una specie di grande ombrello sotto il quale tutto succede ed è un ombrello che è diventato sempre più importante, sempre più grande, perché perché non per un'evoluzione naturale di tipo darwiniano, per cui non poteva che andare così, sono state prese tutta una serie di decisioni negli ultimi 100 anni, ma forse anche molto di più, che hanno portato a dove siamo. Al di là della terminologia, del chiamiamolo dizionario, c'è una premessa da fare, nel senso che siccome la finanza non è un esercizio per addetti ai lavori, la finanza è tutto quello che ci riguarda e che ha un impatto enorme sul nostro modo di vivere, sul nostro futuro, bisogna andare a guardare un po' indietro. Io ammetto la mia ignoranza trasversalmente, ma voi siete sicuramente più esperti e avete approfondito le tematiche, ma se Marx parlava di scissione tra il produttore e i mezzi di produzione, e parliamo di 160 anni fa, di più, poi c'è chi ha parlato e parla oggi di profitto senza produzione, quindi è stata eliminata anche la necessità di produrre. Chiaramente questo è un'estremizzazione concettuale, ma fondamentalmente per fare profitti la produzione è una delle cose, ma la maggior parte dei profitti oggi viene fatta in altro modo. E Krugman, che è stato premio Nobel per l'economia, parla di scomparsa del profitto inteso in senso industriale, reale, e invece con la sostituzione del rent, quindi di una rendita di posizione. Quindi noi siamo partiti dai mezzi di produzione per andare a dire che i mezzi di produzione non ci servono più, ma che quello che noi vogliamo sono delle rendite di tipo parassitario. Quindi questo come mega concetto. Un altro ragionamento che ci fa capire dove siamo: il PIL degli americani è 20 trilioni di dollari, il totale dei titoli obbligazionari, azionari, fondi, eccetera, eccetera, del mercato americano è 6 volte tanto. Quindi, detto brutalmente, se l'economia conta 20, la finanza conta 120, quindi 6 volte. Allora è chiaro ed evidente che stiamo parlando di un... Lui parlava prima di sistema, cioè una finanza che è diventata così invasiva, pervasiva, ha delle conseguenze su tutti noi. Perché siamo arrivati, o una delle ragioni per le quali siamo arrivati a questo punto, dal mio punto di vista, arriviamo alle cose un filo più tecniche, voi avrete sentito chi sì, chi no, di questo che è stato l'accordo di Bretton Woods. Bretton Woods è una località nel New Hampshire, quindi est degli Stati Uniti, che ha ospitato nel 1944 tutti i maggiori esperti del mondo occidentale, i politici, eccetera. E da lì sono nate tutta una serie di iniziative, tra cui la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca dei Bank of International Settlement, eccetera, eccetera, eccetera. Ma e soprattutto si è stabilito un concetto, che era legare monete ed economia alle riserve auree. Quindi si può fare economia a patto che quello che tu presti e fai circolare nel sistema economico sia comunque garantito e protetto da un altrettanto, da un controvalore in oro. Controvalore in oro. Quindi il mondo dal 44 in poi è stato un mondo abbastanza semplice. Le monete erano a cambio fisso, quindi ci si poteva muovere di più o meno 1%, ma l'oro era il punto di riferimento. Arriva il 1971 e gli americani riconvocano tutti, presidenza Nixon, e chiaramente ubi maior minor cessat, si decide di abbandonare il cosiddetto gold standard per passare al dollar standard. Quindi cosa succede? Succede che diventa tutto relativo e relazionato al dollaro, e i depositi e le riserve dei paesi non sono più solo in oro, ma sono in dollari. Quindi si crea questo meccanismo per il quale il debito americano diventa la riserva valutaria del mondo. Per cui tutto il mondo, comprando buoni del tesoro americano, finanzia il debito americano. Quindi si crea un meccanismo virtuoso o vizioso, virtuoso sicuramente per gli americani, ma che fa sì che oltre questo collegamento ci sia la possibilità di passare a una moneta aurea, a una moneta legale. Quindi quanto stampa la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve Americana? Quello che vuole, perché non deve avere un controvalore in oro nelle proprie riserve. La massa monetaria, ovviamente, e tutta l'attività si gonfia a dismisura. Facciamo un salto di altri 30 anni, quasi 30 anni, nel 1999, Congresso Repubblicano, parlo dell'America perché l'America è ovviamente l'estremizzazione di tutto questo ragionamento, sotto presidenza Clinton viene abrogata una legge molto importante che divideva per le banche l'attività commerciale, quindi quella normale di una banca, dall'attività speculativa, quindi tutta la parte di investment banking, che vuol dire mille cose, tra portare le compagnie, le aziende in borsa, a n numero di attività diciamo di natura molto più speculativa. Quindi nel 99 questa legge, che era stata emanata nel 1933 in piena Grande Depressione, appena usciti dalla Grande Depressione, per dividere le attività delle banche commerciali dalle banche di investimento, viene abrogata. Arriviamo al 2008 e succede il disastro, ma è un disastro, ripeto, ci sono almeno, il tentativo è di ricostruire un fil rouge che segua dei possibili ragionamenti. Quello che voglio dire è che ci sono degli eventi che sono stati cardini nello sviluppo e nel rendere la finanza un'entità così gigantesca, così diciamo dilatata in questi ultimi, parliamo dal 71 a oggi, sono 50 anni, mal contati. Quindi questo come premessa per capire o perlomeno cercare di trovare un ragionamento che colleghi un po' la storia. Marco ha fatto un ragionamento sul linguaggio. Il linguaggio, al di là di tutte le citazioni che uno può fare dotte su che cosa significa il linguaggio è un modo sicuramente adottato internazionalmente per sicuramente facilitare, cioè con delle sigle evidentemente c'è molta più facilità di identificare di che cosa si stia parlando, ma allo stesso tempo serve ed è sempre servito a creare un muro, a creare una barriera fra i cosiddetti non addetti ai lavori e gli addetti ai lavori. Quindi non dico che sia stato fatto alla luce di una grande strategia e di una grande orchestrazione, ma è avvenuto, ma anche qui c'è qualcuno a cui questo è servito e tuttora serve. Se andiamo a vedere cosa è successo a livello di remunerazione, di retribuzione, di compenso per gli operatori finanziari, rimaniamo a bocca aperta, perché se prima degli anni 70 un dirigente industriale e un dirigente bancario avevano una remunerazione assolutamente simile, questo gap che si è creato si è dilatato a dismisura. Perché? Questa è una domanda alla quale si fa fatica a rispondere, perché uno dice ma perché sono tutti gli intelligenti sono andati a Wall Street, quelli che volevano avere successo economico abbandonavano le attività industriali e andavano nelle attività finanziarie, ma questo secondo me non basta e ci deve essere una spiegazione secondo me un pochino meno terra terra. Una possibile è che si è creata, alimentata un'elite che è assolutamente autoreferenziale, che ormai è diventata un ceto, è un dato di fatto, cioè ci sono intere parti degli Stati Uniti che ospitano questi insediamenti di persone che sono assolutamente dentro in questo circolo. È un circolo brutalmente dove cane non mangia cane, dove non ci si fa le guerre, ma dove si trova sempre un modo per arrivare a trovare un accordo. Un accordo che evidentemente taglia fuori il resto di quelli che sono fuori da questo ambito. E vorrei fermarmi qua come primo step, perché è chiaro che ci sono talmente tante implicazioni di natura addirittura antropologica, oltre che filosofica, oltre che tutto quello che volete voi, su il perché le cose stanno così. Vi lascio solo con una considerazione. Nel 71 si abbandona il legame con l'oro, e dal 73-74 c'è una divaricazione, c'è un incremento, un'accelerazione della divaricazione nella distribuzione di reddito e ricchezza, parlo sempre degli Stati Uniti, mai vista prima. Quindi c'è questa forbice, e allora uno dice sì, ma 2 più 2 non fa necessariamente 4. Diciamo che ci si può provare ad arrivare a creare una correlazione fra questa enorme crescita della massa circolante, massa monetaria, e il fatto che poi questa massa sia governata e i benefici vengano indirizzati a questo, diciamo, relativamente piccolo gruppo di persone che ha in mano più o meno questo le leve del comando in questo discorso. Domande? Oh, hanno scritto in tanti, l'ultimo libro che ho letto è un libro che ha scritto a quattro mani Noam Chomsky con un professore di... sono una serie di lezioni in uno dei posti più imprevedibili, perché è una serie di lezioni tenute all'Università dell'Arizona. Quindi Arizona, sappiamo, è uno stato iper repubblicano, eccetera, eccetera, però evidentemente con una platea ricettiva. E lui, Chomsky, in vari suoi scritti parla di questa elite. Questa elite nel tempo si è creata dei modi di... cioè, come delle leggi all'interno. Vi faccio un esempio, perché sennò sembra sempre che si parli del sesso degli angeli. Allora, nel 2008 scoppia la bolla negli Stati Uniti, scoppia in maniera assolutamente deflagrante, e ai tempi Obama piglia e con Bernanke, che era il governatore della Federal Reserve, chiude le grandi banche dentro in una stanza, hanno fatto tutti i film che abbiamo visto, e dice: qui non si esce fino a quando non mettete il grano, perché se voi pensate che noi veniamo a salvarvi, voi vi impegnate, e quelli bravi e quelli meno bravi hanno dovuto mandar giù il boccone e mettersi a posto con l'amministrazione Obama. Andiamo a vedere cosa ha fatto Goldman Sachs. Goldman Sachs è la banca d'affari di cui si parla, ne ha fatte di tutti i colori. Parliamo di elite. Tu per entrare a Goldman Sachs in qualsiasi parte del mondo devi sapere fare il triplo salto mortale dal punto di vista figurato nei confronti di matematica finanziaria, bla bla bla, e finire modello Tognazzi nel federale. Quindi è... non plus ultra dal punto di vista tecnico, intendiamoci. Goldman Sachs, la crisi viene sostanzialmente generata o resa patologica dalla questione dei famosi mutui subprime. Quindi i subprime sono dei finanziamenti ipotecari, dei mutui ipotecari dati al privato per comprare la sua casa. Subprime vuol dire che questi mutui erano dati a debitori che non erano a livello prime, quindi a livello di essere affidabili. I subprime arrivano a essere il 30% del totale. Parlavo prima della cartolarizzazione. Le banche cosa fanno? Quando fanno, accumulano questi finanziamenti, questi prestiti ipotecari, poi li mettono tutti insieme e li cedono, si liberano di questi mutui che diventano, in mano a questi che sono dei impacchettatori, diventano sostanzialmente dei titoli di tipo obbligazionario. Quindi cosa succede? Succede che la banca si libera il proprio bilancio e questi pacchetti vengono, diventando titoli, vengono ridistribuiti. Goldman Sachs è stata una delle più grandi promotrici di questo, ma mentre faceva questo si è trovata in bilancio molti di questi mutui subprime che non voleva avere. Allora cosa ha fatto? Ha fatto quello che ha fatto sempre. Ha detto a tutto il mondo: comprate i mutui subprime, che è un investimento fantastico, eccetera, eccetera, e nel frattempo si è vuotata di quello che aveva in pancia. È successo quello che è successo, hanno costituito una commissione senatoriale che è andata a chiedere ragione del comportamento di Goldman Sachs. E il numero uno di Goldman Sachs è venuto fuori dicendo che lui, quando è successo il grande casino, era in un cottage dove non riceveva, non prendeva il telefono, dove la sua segretaria si era dimenticata di mettere la carta nella stampante e cose di questo genere. A scopo così didattico, il signor Blanfin, che era allora il numero uno, è un uomo che si portava a casa, non è guadagnare, è portare a casa una media tra i 150 e i 200 milioni di dollari l'anno. Quindi quando parliamo di un'elite e parliamo di questi privilegi, c'è una cosa di sicuro che questa elite non vorrà mai fare, che è mollare questi privilegi, e se li inventerà la qualunque purché questo non succeda. Che poi il mondo vada a sud o a nord o a est e a ovest non gliene può fregare di meno. Prova ne sia che Goldman Sachs è quella che ha taroccato i bilanci della Grecia. Goldman Sachs ha fatto, ma non che io ce l'abbia con Goldman Sachs, è l'apoteosi del concetto. I greci sono andati a dire: ma noi alla fine dell'anno non possiamo chiudere con questo passivo, perché sennò l'Europa, non c'è problema, ci pensiamo noi. Gli hanno fatto fare, sembra una roba dei matti, gli hanno fatto fare una bella letterina, ha detto: non c'è problema, i debiti te li togliamo noi dai bilanci, però ci scrive una bella letterina che questo succede il 31 dicembre, il 1 gennaio te li ripigli. Così, eh? Una roba che nemmeno Totò con la Fontana di Trevi, eh? Ma è successo. E Goldman Sachs è stata l'architetta di questa situazione, che poi è venuto fuori il caos, eccetera, eccetera. Quindi, nella locandina abbiamo scritto: va bene, ci siamo occupati dell'economia, l'economia non è un fatto per tecnici, l'economia ci riguarda, eccetera, eccetera. Poi è arrivata la finanza che ha moltiplicato questa roba esponenzialmente. Quindi è un'elite, ed è un'elite potentissima, è un'elite che non è la prima volta, è da millenni che c'è, dovunque c'è stato, c'è una, in qualche modo, un collegamento, collusione, legame forte con il capitale. Immaginatevi oggi che cosa, se quello succedeva 2000 anni fa, oggi, 2000 anni dopo, questa cosa è semplicemente diventata di una dimensione al di là dell'immaginabile. Vi siete di cattivo umore adesso? No, beh, questo. No, no, i sei punti lui mi ha. La commissione di garanzia di. No, lui. No, nel senso che ha avuto ragione, se no non solo stavamo qua, chi sopravviveva stava qua, sarebbe rimasto qua fino a... No, no, però quello che diceva Marco all'inizio, noi vorremmo, al di là di esprimere delle opinioni, vorremmo sapere un po' che cosa vi interessa, nel senso che la finanza ha una componente tecnica elevatissima. Quando crollò l'impero sovietico, l'Unione Sovietica, ci fu un fuggi-fuggi di astrofisici, matematici, eccetera. Finirono quasi tutti a Wall Street. Per cui a Wall Street la barzelletta era: ma tu quanti Ivan hai assunto? Perché sostanzialmente più Ivan avevi e più forte eri, perché gli davi equazioni differenziali, eccetera, eccetera, per i prodotti... Assolutamente. Poi arrivavano come dicono gli americani, con 10 centesimi pigliavi una dozzina. Ma quindi c'è una componente tecnica importantissima che ha portato ovviamente tutto il discorso della fintech, quindi della tecnologia finanziaria, per cui i mercati oggi non funzionano nemmeno più in tempo reale, di più. Quindi il prezzo di qualsiasi cosa tu voglia comprare o vendere è frazionato in millesimi. E quindi c'è una parte di tecnologia potentissima, ma c'è anche una tecnologia che si è applicata ai prodotti derivati, quindi non tanto agli strumenti che tu usi quotidianamente per intervenire sul mercato come operatore, ma gli IVAN fondamentalmente sono finiti a fare algoritmi e teorie opzionali. Quindi i prodotti derivati di cui si sente così tanto parlare sono stati resi talmente complessi, talmente sofisticati, che il ragionamento, ci sono mille esempi, ma persino il comune di Milano è stato trovato con dei derivati e ha perso tipo 100 milioni di euro. Ma perché, al di là dei 12 IVAN che avevano concepito questo prodotto, nessuno ci aveva capito, non aveva capito i rischi intrinseci di questo prodotto. Ma nel momento in cui tu dici: ma sai, è arrivata la banca di investimento A o B, sono talmente bravi, sono talmente sofisticati, sono talmente di mondo che non ci si può che fidare di loro, che è una sindrome, altro che quella di Stoccolma, molto peggio. A un certo punto dici: ma chi è che mando per il comune a negoziare con questi qui? Ah, ma io conosco quello che lavora per una banca di investimento nella sede di Milano. E torniamo che mandi un cane a prendere le misure di un altro cane. E purtroppo poi arriviamo a questo discorso per il quale la Banca d'Italia, che ha dentro non so quante migliaia di persone remunerate con 17 mensilità, ha preso una sola stratosferica 20 anni fa dentro un fondo di investimento totalmente opaco, ma dentro c'erano due premi Nobel, uno che aveva lavorato alla Banca d'Italia, per cui hanno detto: ma questi sono fratelli, cioè, a un certo punto è una medaglia al valore entrare dentro questo fondo, perché sono, insomma, meglio di così. Han preso una scoppola, che altri l'hanno presa peggio, ma dalla Banca d'Italia, e l'opinione della strada, la Banca d'Italia, la prima cosa che gli dicono è: un centro studi unico in Europa. Ma che cosa studiano? Cioè, studiano una cosa che probabilmente serve per quel famoso 10% che non è coperto dal 90% di cui stiamo parlando stasera. Quindi, ripeto, ci sono letture ovviamente di ogni genere e specie. Io mi fermo al fatto che tecnicamente, allora, forse ve la ricordate, fallisce la più vecchia banca d'Inghilterra, Baring Brothers, 1994, la banca della regina. Quindi banca dove si siedono i parrucconi, gente, il Lord al dei tali, via dicendo. Falliscono. Ma perché falliscono? Perché un operatore, un trader a Singapore si inventa delle operazioni totalmente a rischio, per cui quando queste operazioni vanno male chiamano la Baring Brothers e gli dicono: amico, tu devi rispondere, qui ci vuole la grana, e devi rispondere di tot. I parrucconi a Londra si guardano in faccia e dice: ma chi è questo qui che ci ha fatto saltare la banca? Tu lo conosci, ma cosa fa? Ah, non lo so. Parla con quello che è il suo capo, ma dice: ma tu sai? No, dice: ma ha detto che era bravissimo. Morale della favola: lui viene arrestato, poi dopo 6 mesi è fuori e la banca salta. Allora, io dico che i consigli di amministrazione subiscono, per un gap di tipo tecnico, delle manipolazioni pazzesche, perché se tu hai la tecnica, le posizioni di potere non possono ammettere la loro ignoranza nella parte tecnica, perché loro sono lì, ammettiamo, per merito, per situazioni che valevano 30 anni prima, 40 anni prima. Il mondo va, come tutti sappiamo, a una velocità mostruosa e questi sono stati completamente scavalcati, ma il potere, come devono morire gli scienziati vecchi per far sì che le teorie nuove prendano piede, allo stesso tempo tu hai della gente incapace di capire che cosa c'è dentro nelle istituzioni che loro dovrebbero governare. Quindi siamo messi peggio ancora della prima interruzione. Quindi se eravate tristi prima, adesso siete disperati. Ma fondamentalmente la tecnica è cercare di creare qualcosa di così sofisticato che anche quello, il numero due degli super furbi, cade nel tranello. È, se volete, una catena, se volete una piramide, vedetela come volete, ma è sostanzialmente una catena parassitaria di, non sono parole mie, catena parassitaria di mediazione, di informazione, conoscenza e connessioni. Questo non l'ho scritto io, lo scrive un filosofo francese, e quando l'ho letto lui ha detto no, le piramidi non c'entrano niente, è una catena di anelli di parassitismo, dove all'inizio della catena c'è il parassita principale, c'è il numero uno, e alla fine c'è quello che le piglia da tutti, per cui gli arriva addosso il treno con tutti i vagoni sulla testa. Ognuno cerchi di posizionarsi dove vuole nel convoglio, ma perché allora dice: ma questo qui a cazzarola ha fatto tutta la sua vita nella finanza e parla così, deve essere incazzato come una bestia, deve aver buttato fuori a calci. Ma questo non è successo, sarebbe potuto succedere, ma non è successo. Però il dubbio che ci fosse qualcosa, cioè io sono ingegnere, mio papà è ingegnere, il primo stipendio che ho preso io era 4 volte quello che ha preso mio papà. Mio papà era molto più intelligente, molto più brillante, molto più tutto. Quando abbiamo offerto questo stipendio mi sono detto: ma o io mi sottovaluto, oppure se questo settore, mio padre era un ingegnere industriale, quindi si occupava di risolvere problemi di tipo industriale, oppure o mio padre era un pirla, per cui a un certo punto si è fatto sfruttare tutta la vita, oppure sono capitato in un mondo completamente fuori dalla realtà. E da lì sono cominciate tutta una serie di ragionamenti che poi mi hanno portato anche a fare questo genere di affermazioni, insomma. Bellissima domanda, bellissima domanda questa, bellissima. Bravissima. Allora, tu hai fatto riferimento varie volte alla tecnica, una questione di sapere tecnici che alcuni ce li hanno, altri o ce l'hanno meno. Sì. Però quando parliamo della Banca d'Italia, cui sono saltate le regole le scrivono altri soggetti sociali, cioè perché così come in guerra si fanno i soldi, certi fanno molti soldi e altri vero muoiono. Ah, vero, vero, vero, vero. Allora una possibile risposta, io la risposta non la conosco, ma una possibile risposta è che in un sistema anglosassone la sopravvivenza, la legge di Darwin della sopravvivenza del più, di quello che si adatta meglio, potrebbe valere. Poi forse anche dare un esempio, di dire non cerchiamo di salvare la banca perché è la banca presso la quale c'è la regina, la legge è uguale per tutti. Noi, hai ragione, Montepaschi è un caso di specie, per cui sarebbe andato in un altro modo. Io ho lavorato per questa banca americana, che è stata l'unica banca a fallire negli Stati Uniti. Allora, parlavamo prima di Bretton Woods. Bretton Woods, una delle cose che ha stabilito era la assicurazione sui depositi bancari nel 1944. Quindi c'è questa ente federale che si occupava dei Montepaschi della situazione. E questa banca nella realtà è stata salvata nell'84, è saltata nell'84 per, proprio ha fatto un botto totale ed è stata presa, ridotta ai minimi termini da questa, chiamiamola, società di assicurazione e depositi a livello federale. Però negli Stati Uniti sono state, sono poi più tardi, tipo una decina d'anni o un po' di più, sono fallite una quantità di casse di risparmio e sono state tutte lasciate andare. Ma lui diceva, collegando le due cose, le leggi vengono fatte in modo diverso, probabilmente anche i criteri sono diversi rispetto a una volta. Nel momento in cui la creazione di denaro avviene con questa facilità, questo viene chiamato banking frazionale, per cui tu da una frazione di dollaro crei una molteplicità, quindi un dollaro di riserve e 20 di prestiti. Il limite, è chiaro che il sistema è tirato all'inverosimile. Oggi come oggi le regole ormai sono in mano a sempre di più a quelli che possono permettersi una campagna elettorale. Parliamo sempre degli Stati Uniti. Una campagna elettorale costa qualche miliardo di dollari se sei un presidente, se vuoi diventare governatore probabilmente 500 milioni, 300 milioni. Chi li ha? Nessuno a livello personale. E chi sono i possibili donatori? È vero che c'è un limite, ma i donatori sono quelli che hanno le spalle grosse. E tu vuoi comportarti una volta che sei stato eletto per disgustare quello che è stato uno dei tuoi grandi finanziatori? I grandi finanziatori sono l'industria degli armamenti, l'industria del tabacco, l'industria del petrolio, bla bla bla bla. Quindi è ovvio, è evidente che le regole sono fatte da chi è comunque influenzato in termini pesanti a livello monetario, quindi non si va molto più in là di così. E oltretutto c'è allora, nel momento in cui tu hai normato il sistema bancario, perché il sistema bancario è normato anche negli Stati Uniti, nonostante abbiano abrogato la legge eccetera eccetera, poi ne ha fatto un'altra per mitigare eccetera, però nel momento in cui tu hai normato le banche, quindi non puoi prestare più di tanti soldi, devi avere questo rapporto fra depositi e eccetera, tra riserve, capitale e via dicendo, si è creato un sistema chiamato di banche ombra, di shadow banking, che è diventato più grande e quindi società assicurazione, fondi pensioni, fondi di investimento si sono messi a fare il mestiere delle banche, prestando soldi, avendo poi un meccanismo che le banche non hanno, che ogni tot loro devono valutare il loro portafoglio di prestiti secondo il valore di mercato. Le banche no, le banche hanno un'ottica molto più lontana, quindi ogni anno fanno una valutazione. Questi ogni mese devono fare una rendicontazione su quello che valgono veramente i prestiti che loro hanno erogato. Quindi vuol dire che c'è un meccanismo assolutamente più rapido, sia in entrata che in uscita. Quindi crea una instabilità e una frequenza molto più stretta di avvenimenti traumatici nei confronti dei mercati. Quindi il ragionamento è, torniamo alla tecnica per un secondo, la tecnica definisce, parlavo la prima volta che ho incontrato Flavio, ho detto la differenza tra proprio in termini brutali tra l'economia e la finanza è che all'economia, nel momento in cui tu aggiungi due variabili che sono la variabile probabilistica e la variabile tempo, sei entrato nella finanza. Il mio professore diceva che la finanza inizia nel momento in cui tu al bar ordini un caffè e non lo paghi prima di consumarlo, perché è stato fatto già una valutazione del fatto di in quanto tempo mi pagherai e che probabilità io ho che tu mi paghi. Quindi è già il non pagare il caffè prima di berlo è già un evento di tipo di natura finanziaria. Allora, se infatti, perdonami, se entra qualcuno il cui aspetto è di solito quello là, dice mi spiace venire a pagare il caffè prima. Questo è il ragionamento. Allora, se dove va la tecnica? Dove incide la tecnica? La tecnica incide sul calcolo delle probabilità che tu mi paghi o non mi paghi il caffè. E quando? Alla fine, se vogliamo ridurre tutto in termini molto crudi, fondamentalmente stiamo parlando di questo. Assolutamente. Voi sapete che gli asiatici sono degli scommettitori proprio nel DNA. L'andamento dei mercati giapponese, coreano, riflette questo genere di predisposizione, solo che voi avrete visto che sono arrivate delle piattaforme che permettono anche con pochi soldi di partecipare a acquisto e vendita di titoli in America. Sono delle piattaforme che per veramente o quasi gratuitamente e che cominciano a creare delle perturbazioni, ma anche lì è arrivato un pubblico diciamo meno esperto, meno evoluto e anche meno regimentato, ma fondamentalmente con un atteggiamento, non dico di ludopatia, ma ci siamo, insomma. Però, torno a dire, la tecnica è applicata in quella che viene chiamata analisi di scenario. Cosa succede se? Quindi anche i derivati sono sostanzialmente il prodotto più sofisticato di questa catena di ragionamento. Quindi io ti creo un prodotto tale per cui se i tassi di interesse vanno così, allora cos'ha? Se invece i tassi stanno dove sono, allora così e cos'ha? Quindi, per riuscire a spacchettare un prodotto, che io sto rendendo le cose banali, ma un prodotto così sofisticato, devi fidarti. Quindi non c'è più il discorso della probabilità che tu mi paghi, io mi devo fidare che quello che tu mi dici sia realmente, e quindi ecco la reputazione. Io sono la banca di investimento numero uno, io sono quello che è partito 300 anni fa. Dal mio modesto punto di vista non mi basta o non basta più, perché i miei interessi e i tuoi interessi non sono gli stessi. E se tu puoi mettere sul campo tutti questi super tecnici, poi alla fine il prodotto che tu mi vendi è mors tua vita mea, se vogliamo. E oggi come oggi, nel momento in cui c'è una quantità di liquidità in circolazione, i rendimenti sono ormai quelli di strumenti normali, non di strumenti super sofisticati, sono a zero. Quindi tu ti devi inventare, se sei uno che vive di quello, dei prodotti che estraggano rendimento da qualcosa. Tu puoi estrarre rendimento in n modi, ma di modi comprensibili ce n'è tanti e di modi meno comprensibili ce n'è forse anche di più. Allora, se tu mi spieghi che i miei soldi finiscono dentro un investimento in un parco eolico in Sardegna, ed è vero quello che tu mi dici, io mi associo mentalmente al discorso che fai tu. Se tu mi dici che attraverso una speculazione sul cobalto e su un paniere di metalli di terre rare più di quello e di quell'altro, che se succedono 27 combinazioni di opzioni eccetera eccetera facciamo i soldi, quello che è stato l'uomo più ricco degli Stati Uniti, Warren Buffett, diceva: io non capisco, non investo. È così, cioè lui adesso poi è diventato quasi una caricatura di se stesso, ma il suo concetto fondamentale è: io investo dove riesco a spiegarmi che cosa succede. Certo che l'attrazione che le cose sofisticate esercitano è, per molta gente è irresistibile, perché dice: Madonna, ma io devo essere più intelligente di così, questa roba qui non possono, non, la mia intelligenza deve essere sufficiente per arrivare a capire qual è il meccanismo, dove è la molla che tira fuori il pupazzetto ogni volta che apro la scatola, no? Penso che sia una tentazione alla quale bisogna opporre resistenza, perché ormai sono prodotti che la ricerca di rendimento ha portato dei prodotti per addetti ai lavori a livello di massa, e questo è un pericolo enorme, perché la gente dice: ma me l'ha consigliata la banca, no, la banca mi ha detto, ma guardi, perché la banca ha evidentemente una commissione nel momento in cui classa, come dicono, piazza determinati prodotti. Ma la banca da chi va a prendere i prodotti? Dalla solita grande fabbrica di prodotti internazionale eccetera eccetera. E ancora una volta hai una disparità fra chi vende e chi compra, perché ti arriva il super tecnico da chissà dove e che già parla in inglese, non parla italiano, e quindi quell'altro già si sente un po' a disagio. In più quello gli racconta delle robe che rapporto vuoi scrivere al tuo capo quando hai incontrato uno così? Sono un pirla, non ho capito niente. No, gli scrivi: molto interessante, la società che ha proposto questo è triplo A, quadruplo A, eccetera, eccetera. Secondo me potremmo anche ragionarci, perché le banche sono quelle che hanno preso a distribuire i diamanti di quel signore che hanno... E questi li ho incontrati anch'io, dicevo, ma da non credere. Però le banche a un certo punto, perché questa organizzazione retrocedeva fior di soldi, a quel punto distribuzione di massa. Quindi, ma adesso mi devo fermare davvero, perché se no lui mi... Quindi sì. Beh, ma è quello da cui siamo partiti, no? Produttore separato dalla produzione, profitto separato dal produrre, e a un certo punto separazione dal profitto per andare alla rendita parassitaria. Volevo lasciarvi con un ultimo concetto che a me ha affascinato molto. In America c'è questo concetto, in America, nel mondo anglosassone, della scalability, quindi della capacità di moltiplicare lo sforzo, cioè fai uno sforzo, un'attività, però riesci a moltiplicarne l'impatto. Prima operazione di scalability, la stampa della Bibbia di Gutenberg. Ha fatto un lavoro dall'accidente, eccetera, eccetera, poi ha stampato 1 milione di copie. Quindi la prima copia gli è costata, non so, 12 miliardi di talleri di allora, e poi il resto in discesa. Il secondo esempio è il DOS del signor Bill Gates, sforzo e moltiplicazione. Quindi questo tentativo di moltiplicare i pani e i pesci all'infinito è quello che ci porta in queste aree rarefatte. Alla fine Google compra una società ogni 15 giorni. Google. Microsoft le comprava allora, adesso Microsoft è un po' indietro, ma Apple fa la stessa cosa, Amazon fa la stessa roba. A loro conviene molto, ma non comprano startup, comprano società che sono appena partite, che sono tutte innovative. A loro, perché hanno ormai messo in moto un volano tale per cui con pochissimo sforzo questo volano viene continuamente tenuto in moto e genera una quantità di profitti tale da poter comprare tutto l'esistente. Quindi il famoso discorso Marx dice, no, oligopolio, monopolio, ci sono delle società che rispondono perfettamente al profilo. Sono società che per andare avanti hanno bisogno di pochissima manutenzione. La Apple è una delle società sicuramente che ha avuto un passato, un presente di innovatività, eccetera, eccetera. Ma ormai ha una tale capacità di dominio e che al di là di due o tre concorrenti su certe produzioni ha il monopolio. Quindi è chiaro che nel momento in cui tu unisci la tecnologia alla virtualità e ai soldi. Ma poi cosa se ne fanno di tutte queste società che comprano? Beh, è il famoso discorso che veniva chiamato una volta il salvadanaio tecnologico, no? Per cui metti dentro queste società con i loro prodotti, le loro innovazioni e o li lasci lì per sempre, che non ti rompono le scatole, perché non devi rivedere tutte le tue, diciamo, i tuoi modi di produzione, i tuoi sistemi, e quindi li lasci morire, oppure ogni tanto spacchi il salvadanaio e tiri fuori qualcosa che ti serve, e quindi lo applichi per migliorare i tuoi prodotti e via dicendo. D'altronde, solite storie, metti in piedi una società con 5.000 dollari, arrivi a valerne 3-4 milioni, arriva il signor tal dei tali che te ne offre 25, a malincuore sistemi tre generazioni, o quattro, o cinque, no? Quindi questo ragionamento del controllo, non, uno dice ma la meritocrazia porta, cioè Darwin e tutte queste robe, però è provato che se tu arrivi per primo e fai le cose giuste, diventi il re del tuo stagno e non lasci entrare più nessuno. Quindi la corsa è non solo a arrivare sul mercato, essere competitivo, eccetera, è a riuscire a saturare il mercato nel minor tempo possibile, in modo tale che gli altri si trovino davanti a delle barriere all'ingresso così alte da non provarci nemmeno, oppure se ci provano si fanno male e tornano indietro. Vabbè, lasciamo un momentino perché tirato una. Sì, perché bisogna lasciare anche che venga metabolizzato in che rapporto sta la finanza con gli stati nei quali risiede, oppure in quelli in cui non risiede, ma che però sono originari dell'azienda. È indubbio che l'esempio che per anni l'Italia, poi è un paese che sotto certi aspetti sarebbe interessantissimo da narrare, perché di narrazione ormai si tratta in questo paese. Nessuno si può dimenticare che un'azienda come la Fiat, che oggi non è più neanche sul territorio nazionale, è un esempio da manuale, perché sono andati avanti per un'infinità di anni, parte con un ricatto che è un ricatto occupazionale, e poi nella realtà questo ricatto occupazionale si concretizzava che quando vi erano profitti e dividendi da dividere ci pensava la famiglia Agnelli e i suoi parenti, quando c'erano le perdite si dividevano con noi tutti, e quindi sì, si dividevano con noi tutti. È chiaro che così, voglio dire, sono anch'io capace di fare l'industriale. Sono andati negli Stati Uniti e avevano cercato di assestare anche un colpo al monsieur Obama, che allora c'era, e ci sono riusciti. Ecco, altro che la mafia che era andata là con l'immigrazione ottocentesca, no? Certo. Seguendo quello che dici tu, io mi ero appuntato sul discorso del neoliberismo, alcune delle, diciamo, evidenze importanti. Quindi avevo scritto: eliminazione dei servizi pubblici e relativa privatizzazione, quindi mo devi pagare. Assalto a rappresentanti dei lavoratori, quindi cercare di distruggere la capacità sindacale. Deregulation, quindi rendere tutto libero per tutti, privatizzazioni, e poi indebolimento dell'antitrust, e questa è un'altra storia. Ma quello che dice lui è fondamentale, è privatizzazione dei profitti e pubblicizzazione del debito, delle perdite. E questo è un gioco troppo bello per rinunciarci. Per cui mi viene in mente la battuta di Crozza quando faceva Marchionne, che dice: ma io sono andato a votare per Trump perché Obama mi riconosce e non mi dà altri 6 miliardi di dollari come mi aveva dato Obama, quindi devo votare per Trump, e anzi quando ho visto passare Obama ho fatto così. Allora Marchionne nel suo è stato un genio, perché è riuscito a farsi dare i soldi da Obama, i soldi dai sindacati della Chrysler, e far finta che fosse la Fiat a comprare la Chrysler. Straordinario. Ma questo discorso della non responsabilità, nel non essere, nel non accettare le responsabilità della gestione, è uno dei comandamenti di quello di cui stiamo parlando oggi. Tu, come quello che diceva la mia segretaria, aveva l'influenza e ha finito la carta della stampante. Questo è un ragionamento che hanno scritto un libro che si chiama Skin in the Game, quindi quanto rischi di proprio, no? La tua pelle dentro nel gioco. E il segreto è questo qui: la pelle deve essere quella di qualcun altro. Torniamo a Ricucci, come dicevamo, che aveva detto: siamo tutti froci col culo degli altri. Ma questo è fondamentale per quel ceto di cui chiedeva Flavio. Quel ceto si regge sul fatto di non essere mai beccati col cerino in mano. E come lo fai? Quando è che riesci a privatizzare qualcosa che è pubblico o pubblicizzare qualcosa che è privato? Quando tu e i politici siete sulla stessa lunghezza d'onda. Per cui sistemo, vi racconto una storia che è vera. De Benedetti, tantissimi anni fa, c'era questa società in America che si chiamava Olivetti Corporation of America, e c'era la famosa Marisa Bellisario, che era la numero uno. Allora, bravissima, lei era una super manager, eccetera eccetera. Cosa succede? De Benedetti va in America con questa Olivetti Corporation America. La Olivetti Corporation America è un po' un cavallo a tre gambe, e decide di fondersi con una società che faceva i bancomat. Morale della favola: la fusione avviene con un'azione per un'azione, quindi vengono valutate alla pari. $24 una, $24 l'altra, siamo tutti contenti. Nell'apporto della Docutel, della Olivetti Corporation of America, c'erano una serie di magazzini pieni di personal computer che erano già obsoleti, perché erano già roba che riuscivano a vendere forse alle poste, a quelle robe lì, però vengono stimati per buoni, per cui un dollaro, 24 dollari, 24 dollari. I dirigenti della società che si chiamava Docutel, di quella che si fonde con l'Olivetti Corporation of America, vengono presi da De Benedetti con un contratto di consulenza. Questi non hanno mai visto tanti soldi come quelli promessi da De Benedetti se avessero approvato la fusione. La fusione avviene, il titolo rimane a 24 dollari per un quarto d'ora. Dopo sei mesi va a 6 dollari. Chi mi dava lavoro allora mi dice: va a vedere un po' cos'è successo. Vado a vedere, guardo tutto il discorso del Ministero del Commercio, le statistiche, le tabelle di quanti computer sono stati venduti, eccetera, eccetera. E non vedo traccia. Non ci sono computer che dall'Olivetti, da Ivrea, siano andati negli Stati Uniti. Però scopro che c'è stato un grandissimo incendio in uno dei magazzini, nel magazzino più grosso, non so se si chiama Scarmagno. Per cui quei computer non sono mai andati, sono bruciati. Allora, vogliamo parlare di grande finanza? Qui siamo al brigantaggio del Cinquecento. Capito? Ma il ragionamento è che poi De Benedetti era dentro nel board della Harvard Business School e andava a tenere delle lezioni di altissimo profilo, ma fondamentalmente, ma non perché lui, poteva chiamarsi un bandito da strada, cioè uno che fa una roba, brucia i propri computer e fa questa roba, a parte un genio del male, bravissimo, ma... E poi l'altra cosa, io lavoravo per una banca che mi ha commissionato lo studio, perché un loro cliente che era della stessa religione di De Benedetti, no, della stessa religione, appartenenza religiosa di De Benedetti, gli erano girate un po' le scatole. E a un certo punto quello che è venuto fuori è che lui era riuscito a praticamente intortare praticamente la sua comunità. Cioè, come è successo più di una volta, qui non c'è nessuna connotazione di nessun altro genere, è una constatazione. Fondamentalmente lui è riuscito a convincere sulla base della sua reputazione, sulla base della sua nomea di grande, eccetera, fondamentalmente il suo bacino di riferimento immediato, e gli ha tirato un pacco. Sì, ma è il metodo più vecchio del mondo, no? È il famoso cavallo zoppo che ti vendo per buono. Quindi, che poi, a un certo punto viene fuori una società, sempre c'è De Benedetti, che si chiama Olidata, che non so in che rapporto sta con gli americani. Gli americani ormai non esistono. Non ne c'erano più. No, questa è la chicca finale. Perché mi ricordo l'Olidata? Bisogna andare indietro, perché figurati, la bambina, diciamo così, faceva, eravamo al liceo, 20 anni fa quasi, e viene fuori l'offerta governativa chiamata prestito d'onore, dove potevi a rate prendere un computer, e il computer era Olidata, cioè era De Benedetti. Chiaramente la povera gente tipo me hanno detto: boh, mi sembra una buona idea. Infatti era una buona idea, cioè, per dire. Però dopo questi briganti riescono a rimanere sempre in circolazione, metterli in piedi. Dunque, chiaramente il tutto era a carico dello Stato, perché le banche facevano il servizio, in poche parole, no? No, è venuto questo particolare. Catena parassitaria. Poi c'hai un giornale, una gazzetta, poi c'hai i funzionari del partito, poi 10 anni dopo c'hai l'associazione di certi giudici, c'è quello che fa riformare l'articolo, è l'impunità, la pirateria, i pirati, sì, si arricchivano, attaccavano, prendevano l'oro che mandavano con i brigantini dal Sud America in Spagna. Sì. Però erano quelli che mettevano fuori i soldi per comprare i brigantini che sì. Guadagnavano. Per citare Chomsky che cita Gramsci, lui dice che c'è tutta una categoria che lui chiama esperti in legittimazione. È così. Cioè tu hai, o lui li chiamava intellettuali organici e via dicendo. Ma a cosa servono? Servono che il loro presunto acume serve per renderli credibili. Ma poi sono pagati. Sono pagati, quindi sono esperti di legittimazione. E qui corrono tutti, come diceva Flaiano, tutti in soccorso del vincitore. L'Italia è così, l'Italia, ma tutto il mondo. La catena è alla fine, se vogliamo renderla più brutta di quello che è una specie di catena di circonvenzione di incapace. Cioè alla fine basta che io sia 1% un po' più capace di te e tu sia un po' più capace per l'1% di quello che ti sta sotto e la frittata è fatta. Ma homo homini lupus, insomma, già 3.000-2.000 anni fa dicevano che non andava bene, poi ce ne siamo dimenticati, insomma, no? Basta. No. Te ne vai o no? Te ne vai sì o no? Vai, vieni. Scusa. Aspetta un attimo. Ah sì, dai, vieni qua, Visconte. Anzi, io ti do anche la sedia. No, dicevo, c'è in corso questa vicenda della GKN, questa fabbrica di Firenze che produceva, che è stata chiusa, Semiassi, e che era dell'indotto Fiat una volta, e che diciamo era una fabbrica che andava bene, cioè vendeva e produceva e faceva anche profitto. Venne acquistata dal fondo Melrose in inglese. E questo fondo poi adesso l'ha chiuso mandando un'email agli operai. Non so qual è la logica di questa cosa, di una fabbrica che va bene, fa profitto e che invece la chiudono. Perché... fa profitto con produzione. Abbiamo detto prima che la produzione non interessa più a nessuno. A parte è una battuta, chiaramente sono logiche di natura diversa, però... l'economia è diventata un pretesto, se vogliamo metterla, cioè una volta la finanza nasce sul discorso, come sappiamo tutti, io devo ho un raccolto di grano, c'è qualcuno che me lo compra nel futuro, fra 6 mesi io so già che quello che mieterò venderò, e quindi la finanza mi serve perché ho un contratto future, no, come si dice, è il primo contratto derivato nella storia, quella roba lì. Ma adesso le parti si sono invertite, ma da tanto tempo, per cui l'economia è un pretesto. Ormai il ragionamento è, se tu hai 6 volte la massa di titoli, la massa di titoli circolante è 6 volte più grande del PIL. Mi fermo ai 20 trilioni, no? Vado ai 120, mi rendono molto di più, è molto più semplice. Quindi ecco quindi il discorso che poi le multinazionali fanno e disfano di tutto e di più a livello di dove mi conviene, se in un paese dove ho una tassazione di un tipo o piuttosto che in un altro. Quindi la logica o la mancanza di logica nasce da lì. ma ripeto, siamo, diciamo, la stessa cosa fondamentalmente. Cioè le logiche ormai sono delle logiche che sono al di là e al di sopra o al di sotto delle logiche economiche. D'altra parte, un po' di anni fa, coscienti o incoscienti, comunque il dato di fatto concreto che tutti potevano, almeno tutti insomma, quelli che riuscivano, è che a un certo punto si è affidato ai cinesi la fabbrica per il mondo. E però sono passati gli anni, i cinesi si hanno lavorato, perché... E però a un certo punto anche loro si sono trovati del denaro in più che in un primo momento hanno pensato di sostenere il debito americano. Ed ecco che lì, in questo momento, è la corda dell'impiccato. Il rapporto tra cinesi e americani è questo. Quindi i cinesi da una parte sono costretti anche a finanziare il debito americano, e nel frattempo però andranno in Africa per cercare di investire in qualche cosa di più remunerativo nel tempo. Quindi si apre tutto uno scenario altro che la guerra in Ucraina. Il debito americano è per il 45% nelle mani di investitori stranieri, quindi e poi è chiaro che, come dicevamo prima, il dollaro è la moneta di riferimento e anche di riserva, però se uno ti tiene per quella parte è difficile che tu vada a tirargli un pugno in faccia, è stessa roba, per cui a un certo punto devi stare molto attento. Con gli arabi il ragionamento è un po' diverso, perché lì ci sono armamenti, il sostegno a dei regimi di tipo medievale, feudale, eccetera. Quindi lì i cinesi sono una grande potenza industriale, capitalista, di Stato, ma capitalista. Abbiamo, quando ha fatto alcuni esempi nei passaggi precedenti, si è citato il famoso caso Grecia, Goldman Sachs. La Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Italia, a questi periodicamente gli si chiede del loro debito. C'è qualcuno che chiede del debito agli americani? No, no, ma non è... Se venissero applicati agli Stati Uniti i criteri di Maastricht, l'America sarebbe già in default da una vita, perché loro, ci sono dei debiti che sono riconducibili alla responsabilità del governo americano, quindi sono dei debiti attraverso una catena federali che però non vengono consolidati nel bilancio americano. Ergo, è una virtuosità assolutamente ottenuta attraverso un artificio. E da dottore commercialista. Sì, sì, ma proprio di quelli come Wei Juani, Femin Shi. La Germania ha pagato qualche paese che ha distrutto. La Germania tu parli della Seconda Guerra Mondiale. La Germania sta continuando a pagare adesso. Ma lascia stare cosa hanno combinato. Adesso, la Grecia, ogni tanto vedo qualche documentario, non so cosa hanno combinato. La Grecia, ma chiedeva, hanno pagato, chiedeva. Lo garantisco, e continuano a pagare. Però, come hanno fatto gli americani, hanno fatto la stessa cosa con i giapponesi, con i debiti. La Grecia non gli è andato un cazzo, adesso che gli hanno dichiarato in default. Dai. Chi? I tedeschi? No, non ho capito. I tedeschi. Alla Grecia? No, che ci sono ancora dei contenziosi. Che quelle cose lì sono. Ma sono tutte delle donne. Per la guerra. Per i danni passato. Di guerra. Sì, sì. Capirsi, vabbè, ma comunque. In Ucraina si pagheranno i danni di guerra. A chi rimane la miniera, a chi andrà. Infatti, adesso stanno cioè, tante maniere di pagare. Due conti, Dice, qua corriamo il rischio che questi non ci tornano più. Comunque gli americani, sia con i giapponesi che con i tedeschi, hanno fatto la stessa operazione, no? Hanno distrutto i grandi monopoli, creando dalla Farben AG, sono venuti fuori Bayer, BASF, Höchst, eccetera, eccetera, gli ha creato concorrenza e quindi da un monopolio a un oligopolio e sono diventati giganteschi. Stessa cosa in Giappone, hanno distrutto le Zaibatsu o Gumbatsu, come si chiamavano allora, e da lì sono cresciuti come germogli spontanei. Quindi gli americani erano effetti non voluti del loro intervento. Loro volevano, a parte la parte politica, ma loro volevano sostanzialmente tenere sotto controllo quello che succedeva, e siccome capivano certe cose hanno detto basta questo, basta quello, basta quell'altro, e da lì hanno creato poi mercati di sbocco e un sistema molto più dinamico di prima. Quindi conseguenze non volute di azioni dirette a qualche altra parte. Dicevi, volevi? È una domanda più personale. Io sono brasiliana, quindi faccio un po' fatica a descrivere il mio lavoro. Io sono un lavoratore che vende il mio servizio e mette in banca. La banca vende dei prodotti, per chiaramente far rendere i soldi. Per fare? Rendere i soldi. Per cui io ricevo dei soldi che sono pari alla vendita del mio servizio, metto in banca e li fai rendere a partire dei prodotti creati, ok? Quello che voglio capire è: la rendita di quei soldi è reale o è illusoria, e la perdita di quei soldi, perché tipo ad esempio sì, no, non si basa più sull'economia, nel senso, no, questa è un'affermazione radicale, ma si basa meno, sempre meno sull'economia. Fondamentalmente ogni prodotto finanziario dovrebbe avere un rendimento in proporzione al rischio, no? Quindi ci dovrebbe essere una correlazione fra i rischi che corri con quell'investimento col rendimento che genera. Nel momento in cui c'erano i BTP, che erano i buoni del tesoro italiani, che rendevano il 10, 11, 12%, l'inflazione era l'8, 9, 10%, era un gioco abbastanza semplice. Oggi i tassi sono a zero, se non negativi, quindi le banche non hanno nessun interesse a prestare soldi, perché li presterebbero a dei tassi, data la loro struttura di costi, che non remunerano. E quindi si inventano dei prodotti. Il vero punto cruciale è il rischio. Rischio reale rispetto a rischio venduto. Io ti propongo un prodotto e non necessariamente del rischio di questo prodotto faccio una rappresentazione fedele. E questo è il problema. Per cui ti prometto magari dei rendimenti, o magari te li do anche questi rendimenti, ma quello che sottovaluto nella presentazione è il livello di rischio che ti ho fatto correre. Nel momento in cui tu hai tassi a zero, per uno che ti promette il 5%, è Dio. Io ho lavorato in una banca, il cambista che gestiva i cambi mi ha detto: per lo 0,01% di rendimento che tu offri in più rispetto al tuo concorrente, si muove il mondo. Quindi non è che per l'1%, il 2%, per lo 0,01 si spostano, perché il mondo è quella roba lì. Quindi per una frazione di rendimento aggiuntivo io sono disposto, a parità di rischio, sono disposto a muovere montagne di soldi. Quindi tu immaginati un prodotto cosiddetto retail, quindi di distribuzione al pubblico, che ti promette dei rendimenti. Sa, dottore, signora, guardi, un prodotto, questa è una casa importante, ha sempre fatto le cose molto bene, eccetera, eccetera, gestiscono 7 trilioni, qua, là e su, giù, è un prodotto perfetto, lei non può uscire per i prossimi 12 mesi, deve dircelo 3 mesi prima, se vuole cosa c'è l'1% di penalità, o 2%, 3%. Quindi non stiamo parlando di fatti illeciti, ma c'è un gap, una differenza tra la rappresentazione del rischio e il rischio reale. Questa è la cosa più probabile che ti succeda. Comunque, oggi come oggi, i tuoi 100 euro che hai sul tuo conto corrente, dico che oggi come oggi i tuoi 100 euro che hai depositato, pagherai qualcosa affinché loro li tengano in custodia. Chiaro? Quindi nel frattempo, questo lo racconto perché mi è capitato, perché mi arriva un messaggio dove dice che la mia carta scade e quindi devo andare. Allora, intanto andare non è mica che uno va lì così, devi prenotarti online, perché con la scusa vera, il Covid c'era veramente, chiaramente, io sono tra quelli che pensano che esiste il Covid, ma grazie a questo lo dobbiamo prenotare. Siccome in quella banca io e i miei siamo lì da 500 anni, io ho pensato, me ne sono rotto la minchia e sono andato là, siccome conoscevo, ho detto, sentite, cioè siete voi che state cambiando le carte, non io, no? Quindi me la cambio. Allora lì però sarà l'occasione per una addetta, per però adesso qui là, allora però volevo illustrare, te la faccio breve. Alla fine mi mette in piedi un meccanismo con depositi a montare mese per mese, che è una specie di polizza vita piano d'accumulo, da 27 euro al mese. Bene, io sono stato lì per dire, guardi, lei passi da me tutti i mesi, do io i 27 euro a lei e siamo a posto così, no? Sono uscito con un pacco di carta così che avrei dovuto leggere per capire cos'è sto cinema dei 27 euro al mese. Ma qui, così come una volta quando mi telefonarono, mi dice, no, sa, pensavamo fare degli investimenti, e mi dica, sempre la banca, e dice, ma guardi, basterebbero, ma dico, ma investimenti in che senso? E dice, anche bambina, anche 100 euro, dico, ma 100 euro al mese siete messi male, gli ho detto, che cazzo, ma siamo rovinati, se la mia banca vuole fare investimenti da 100 euro al mese, cambio banca, gli ho detto, perché non mi fido più di voi, vuol dire che siete ridotti. No, adesso queste sono tutte, ma sono cose vere, cioè. E lo so. Garantito dallo Stato di 20.000 euro. Sì. Allora vai alla banca e praticamente inizi, io cioè le 1.000 euro da firmare, ci puntavamo ovviamente problemi di vari livelli, vedo che cercano di piazzarmi una polizza, una cosa, cioè dico, ma questa roba io lo sto capendo, tu però ti posso dire, ma questa io devo fare, no, però insomma la banca interessa 20.000 euro, mica siamo gli studi di deficienza o la monte di cassa. Non voglio apprendere questo, proprio direi di no, voi no, non lo siete, comunque se non è obbligato a me la faccio, cioè, cioè anche per la percezione di chi ci lavora dentro. Come contribuente sei tu. Che ha fatto l'efficienza, ma che non apriamo proprio il... Torniamo al discorso dell'inversione, no? È tutto di... Nel momento in cui tu non ti assumi più nessun tipo di responsabilità, tu puoi fare qualsiasi cosa, nel senso che si chiama rischio moral hazard, rischio morale, che è fondamentale, è trasversale a molte attività. Nel momento in cui io so che mi salverà la Banca d'Italia, mi salverà la BCE, mi salverà il fondo messo in piedi, io faccio qualsiasi cosa, speculo gli stramassimi, perché tanto se mi vanno bene divento la superstar, se mi va male paga lui. Per cui, ma che bello. Un po' di 1 milione, prima le cose sono cambiate. Ma... Allora, tu hai detto che Obama ha messo le banche di fronte alle responsabilità, anche i singoli individui tipo Bernie Madoff hanno perso il culo facendo dei sistemi sbagliati. Qui forse le cose sono un po' modificate. No, ma il discorso secondo me è che è tentare di arginare non so, si è rotta la diga del Vajont e tu cerchi di metterci qualche barriera. Probabilmente per un po' di tempo funziona, ma nel momento in cui la massa che si muove è di questa magnitudine, non c'è molto... Nel momento in cui in America prevalgono i repubblicani, i quali stanno completando il lavoro di distruzione di tutto il sistema sociale, ma anche arriva soprattutto nel discorso della finanza. Nel momento in cui i ricchi mandano su Trump che riduce l'aliquota fiscale, quindi la progressività viene abbandonata, ormai è difficilissimo fare delle previsioni, perché l'impatto delle decisioni politiche è talmente forte e incide su una massa di denaro come mai prima. Quindi siamo messi in una situazione in cui i rimedi di una volta è come se tu cercassi di avessi il cerottino e ormai questo c'ha una ferita che lo divide a metà. Quindi la politica può agire nel momento in cui segue il flusso o lo facilita, dal mio punto di vista. Oggi come oggi io non vedo... Ma... Non lo so, magari ci proviamo, adesso ci pensiamo, ci proviamo. Adesso l'unico problema è che, guardavo che incombe Sant'Ambrogio, la Madonna, Gesù Bambino e quant'altro. Però... studiamo una data, chiaramente. Dunque, se però qualcuno che è qua presente vuole lasciare la sua mail, che così viene, noi abbiamo una newsletter che mandiamo. Te non ce l'hai, la tua non c'è, non ce l'hai. No, non l'ho capito, cosa vuoi fare? Vuoi mettere... Poi il massimo ce l'hai già. Ah, va bene, ok. Quindi se volete la mail potete venire qua e la lasciate. Nel frattempo però scusami, solo dire una cosa. Domani sera, chi fosse interessato, c'è un'iniziativa sull'Iran. Penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro di tutto quello che sta succedendo, il ruolo delle donne là, e alcune donne proprio qui penso che condurranno la serata per raccontare un po' quello che sta succedendo, ecco.